Roberto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io mi prendo tutti i fischi nel dire che è giusto fare gli accordi sulla legge elettorale e sulla riforma delle regole del gioco insieme all'opposizione. E se quei grillini che se ne sono andati o che hanno fatto altro avessero il coraggio, anziché di stare a fischiare, di confrontarsi sulle regole, io parlerei anche con loro come ho provato a fare. Ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo sentito così un po' infervorato Matteo Renzi, era al Festival di Internazionale a Ferrara e ha parlato di vari argomenti, ma qualcuno lo ha contestato, anche ci sono stati dei fischi, dei lanci di uova, che è una cosa che non si fa mai naturalmente, anche quando non si approva un personaggio politico, che sia quello che dice. Comunque, al di là di questo, gli argomenti oggi sono moltissimi. Parleremo naturalmente di politica, dell'attualità politica, del travaglio che riguarda il PD, ma i partiti in genere, soprattutto i due maggiori, il PD e Forza Italia. E poi ci sarà l'avvocato dell'unico indagato per l'omicidio della piccola Yara, di Massimo Bossetti, ci sarà il suo legale che replicherà a un attacco duro da parte dei genitori di Yara che oggi sono intervenuti su una dichiarazione che ieri l'avvocato di Bossetti ha fatto in una trasmissione di una TV lombarda. Parleremo anche di Tari, la tassa sui rifiuti. Adesso bisogna sempre far mente locale quando bisogna distinguere una dall'altra, perché diventa difficile con tutti questi nomi. È aumentata rispetto a negli ultimi 4 anni, è aumentata parecchio. E poi anche faremo qualche accenno alla TASI, che invece è quella che riguarda la casa e che pare sia più cara, questo è il paradosso, per le abitazioni più piccole, che sia più cara dell'IMU. Poi cercheremo di capire. Se avete voglia poi di commentare o di fare domande, sapete che ci sono sempre gli SMS che potete mandare al 349-238-6666, oppure i messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì a vostra disposizione. Anche quando volete aderire, naturalmente vi accoglie a braccia aperte. Ma intanto cominciamo, scusate, l'avete sentita la sigla particolare oggi, perché domani Radio 24, noi compiamo 15 anni, quindi siamo in fase adolescenziale, diciamo. Vi racconto la giornata. Renzi contestato a Ferrara, fischi e lancio di uova, e lui risponde: io sorrido. Hong Kong, gruppo di filocinesi aggrediscono gli studenti che decidono, allora stop al dialogo col governo. Stati Uniti, vola l'occupazione, creati 240.000 posti di lavoro. L'omicidio di Yara, i genitori contro l'avvocato di Bossetti, inaccettabile, dicono, l'ipotesi della vendetta familiare. Lo scontro in atto alla procura di Milano. Brutti liberati, revoca Robledo la delega per l'anticorruzione. Il procuratore aggiunto dice: sono sereno e mi rivolgo al Consiglio Superiore della magistratura. Formula 1, c'è l'addio di Alonso, alla Ferrari. Lo spagnolo lascia con 2 anni di anticipo per la McLaren, al suo posto arriva Vettel. E poi per il calcio, Lionel Messi a processo per frode fiscale insieme al padre in Spagna. Partiamo quindi dall'intervento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi al Festival di Internazionale a Ferrara. La riforma costituzionale, cioè il nuovo Senato, sarà all'esame della Camera a metà novembre, ha detto Renzi. Renzi ha poi annunciato che martedì incontrerà i sindacati. Sapete che ci sono stati vari diverbi e vari scontri negli ultimi tempi. Ovviamente sul tavolo c'è la riforma del lavoro e la questione dell'articolo 18. Mi hanno detto, dice Renzi, tu non ti vuoi incontrare, invece ti incontro, c'è la disponibilità totale a discutere. Mi permetterete di dire che anche i sindacati debbano cambiare e non solo i partiti, così ha detto Renzi. Una trentina di persone poi, come vi dicevo, lo ha contestato per alcuni minuti: confischi, cartelli, lancio di uova e al grido di bambino e buffone. Lui ha risposto: rispondiamo con il sorriso a chi non rispetta gli altri, l'avete sentito, e non li vuole far parlare. Noi siamo per la tolleranza, ed è tornato ancora sui vincoli europei. La situazione di Hong Kong sembra precipitare verso la confusione dopo gli incidenti di oggi nei quali i gruppi organizzati hanno attaccato. Naturalmente qui siamo già all'estero, andiamo anche avanti. Ritorniamo invece su quello che ha detto Renzi a proposito dei vincoli europei. Il 92 era un altro mondo, un altro mondo. I parametri di Maastricht, il 3%, risalgono a quel mondo là. Quindi sostenere che il 3% è un parametro profondamente non attuale, sentite come sono diventato diplomatico, potevo dirla molto peggio, è un dato di fatto. E ora sì, ci spostiamo all'estero, c'è sempre Hong Kong in primo piano nella pagina estera. Al sesto giorno di proteste degli studenti che chiedono democrazia, scontri violenti sono scoppiati oggi nel quartiere dello shopping Mong Kok con gruppi filocinesi in azione contro i manifestanti. Allora sentiamo il racconto di Antonio Talia. La situazione di Hong Kong sembra precipitare verso la confusione. Dopo gli incidenti di oggi, nei quali gruppi organizzati hanno attaccato gli attivisti del movimento che chiede il suffragio universale, provocando diversi feriti, la Federazione degli Studenti ha rifiutato l'incontro previsto per domani con il numero 2 del governo Carrie Lam. Gli attivisti accusano la polizia di essersi mostrata troppo morbida nei confronti delle fazioni violente anti-occupai e sostengono esplicitamente che questi provocatori siano pagati da Pechino, mentre due esponenti del movimento sarebbero stati arrestati. Prepariamoci a una lunga lotta, ha detto uno degli esponenti di Occupy Central. Questa notte per Hong Kong si prospetta come una lunga notte. Antonio Talia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Hong Kong. Intanto vedo anche i vostri messaggi, fate gli auguri, per esempio Beatrice, che ringrazio, dice felice compleanno alla radio più bella, un bacio alla mia conduttrice del cuore, per carità questo è un po' autoreferenziale, lo dico visto che lo scrive. Potete anche scrivere naturalmente gli auguri oggi, visto che domani, come vi dicevo, compiamo 15 anni. Adesso restiamo all'estero, in Stati Uniti, il procuratore generale del Connecticut avvia un'indagine sull'attacco hacker a JP Morgan, la più grande banca americana. I pirati informatici hanno attaccato la scorsa estate, e si è saputo oggi, server rubando informazioni su 76 milioni di famiglie, lo riporta l'agenzia Bloomberg. E poi, sempre secondo gli Stati Uniti, ogni riconoscimento dello Stato palestinese è in questo momento prematuro. Così ha affermato la portavoce del Dipartimento di Stato americano Jen Psaki nel giorno in cui la Svezia ha annunciato che si appresta a riconoscere lo Stato di Palestina. C'è stata questa iniziativa oggi, infatti, la Svezia ha detto noi riconosciamo lo Stato di Palestina, ma subito gli Stati Uniti sono intervenuti dicendo che è prematuro. Torniamo, restiamo all'estero e parliamo sempre degli Stati Uniti. Arriva una buona notizia, che è arrivata oggi dal mercato del lavoro americano. A settembre sono stati creati 248.000 nuovi posti di lavoro. Bisognerebbe capire come fanno gli americani. Ben sopra le attese degli economisti, e il tasso di disoccupazione è sceso per la prima volta dal 2008 sotto quota 6%, attestandosi al 5,9%. I mercati hanno reagito in maniera positiva sia in Europa sia negli Stati Uniti. Milano ha chiuso dopo il tonfo di ieri a più 1,5%, indici americani in progresso di quasi l'1%. Di certo non basta una manciata di acquisti per risollevare le sorti di una settimana decisamente negativa, soprattutto se il rimbalzo pre-weekend non è di quelli che convincono. Milano ha chiuso la giornata con un guadagno dell'1,5%, un rialzo atteso se consideriamo il tonfo di quasi il 4% della vigilia. In crescita anche gli altri listini europei, che ieri, pur perdendo meno di piazza affari, sono rimasti altrettanto delusi dalla BCE, che non ha annunciato nuove più potenti misure a sostegno della crescita. L'Europa non sta bene, l'ha detto anche Mario Draghi, e si sta allontanando sempre di più dagli Stati Uniti, dove, ricordiamo, la crisi era iniziata. I dati sul mercato del lavoro pubblicati oggi parlano chiaro. L'America è in ripresa, il dollaro galoppa e tocca i massimi da 2 anni sulla moneta unica. A settembre negli Stati Uniti sono stati creati quasi 250.000 nuovi posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è sceso sotto il 6% per la prima volta da luglio 2008. La crescita dei salari resta debole, ma potrebbe allontanare di qualche mese il tanto temuto rialzo dei tassi. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora passiamo invece al nuovo capitolo nello scontro di poteri all'interno della Procura di Milano. Terremoto in Procura a Milano. Dopo mesi di scontri a colpi di esposti al Consiglio Superiore della Magistratura, questa mattina il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati ha rimosso l'aggiunto Alfredo Robredo dal suo incarico per assegnarlo ad altro ufficio. È bastata una circolare interna per togliere al magistrato, a capo del pool anticorruzione e specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione, il coordinamento su alcune delle inchieste più calde degli ultimi mesi, come aveva già fatto per quelle relative a Expo 2015 nelle scorse settimane. In via provvisoria sarà lo stesso Bruti Liberati a guidare il Dipartimento, mentre Robledo, già da oggi, sempre temporaneamente, guiderà l'ufficio che si occupa delle esecuzioni penali, ovvero di eseguire le sentenze diventate definitive quando ci sono condannati da condurre in carcere. La decisione del procuratore capo non è impugnabile, però Robledo, secondo quanto appreso, farà sentire la sua voce, scrivendo al Consiglio Giudiziario e al CSM per contestare punto per punto i rilievi che gli ha mosso il suo capo. Intanto, l'unica cosa che gli è stata consentita di fare è di continuare a seguire i procedimenti di cui è direttamente titolare. Flavia Carletti da Radio Corte, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi il caso di Yara Gambirasio. È inaccettabile l'ipotesi di una vendetta familiare alla base dell'omicidio di Yara. A dirlo sono i legali dei genitori della ragazza, che interrompono così questo silenzio durato mesi da quando Massimo Bossetti è stato arrestato con l'accusa di essere l'assassino della loro bambina. In una trasmissione televisiva, come vi dicevo, uno dei difensori di Bossetti aveva evocato nuovamente l'ipotesi di una presunta vendetta nei confronti della famiglia Gambirasio, però di questo parleremo, come vi dicevo, tra poco qui Effetto Notte, direttamente con l'avvocato di Bossetti. Passiamo invece al caso Stamina, perché non ci sarà nessuna sperimentazione. Lo ha detto la ministra della Salute Lorenzini dopo la bocciatura del metodo da parte del secondo comitato di esperti. Il verdetto del comitato è un verdetto senza possibilità di appello. Questo è il commento di Beatrice Lorenzin dopo il secondo giudizio negativo nei confronti del metodo Stamina ideato da Davide Vannoni, emesso dal comitato di esperti nominato dal Ministero della Salute. Su questa base, ha detto Lorenzin, la sperimentazione non si farà. Secondo il comitato, che ha lavorato 6 mesi, i metodi usati da Stamina per la preparazione delle cellule staminali mesenchimali non sono adeguati. Le cellule prodotte non rispettano i requisiti necessari per poter essere definite agenti terapeutici. Contro questa seconda bocciatura, Davide Vannoni ha già annunciato ricorso al TAR, prospettiva che non sembra preoccupare il ministro. Vannoni, come imprenditore, legittimamente può fare ricorso a tutti gli strumenti che ci sono per poter tutelare i suoi interessi. Il mio è quello di tutelare gli interessi dello Stato, che in questo caso sono la salute del paziente. Alle famiglie dei malati che speravano nell'avvio della sperimentazione clinica sul metodo Vannoni, non resta ora che la promessa del ministro Lorenzin di stanziare 3 milioni di euro a favore della sperimentazione sulle malattie rare. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato presentato oggi in Vaticano il sinodo straordinario dei vescovi sulla famiglia, che comincerà domenica. Il Papa, sulle questioni controverse che riguardano la famiglia, vuole aprire. C'è una porta che finora è stata chiusa e lui vuole che si apra. Così il segretario generale del Sinodo, il cardinale Lorenzo Baldisseri, che in Vaticano ha presentato l'assemblea straordinaria sulla famiglia, che prenderà il via domenica. I lavori andranno avanti fino al 19 ottobre, con una novità sul metodo, segno di quella collegialità che Francesco fin dall'inizio ha voluto promuovere nel governo della Chiesa. Non sarà più il pontefice a tirare le fila del dibattito, ma sarà il sinodo stesso ad approvare un documento finale che sarà poi consegnato al Papa. Una scelta che segue quella della consultazione mondiale che ha preceduto il sinodo, con il noto questionario inviato a tutte le diocesi per conoscere il parere dei credenti su questioni come divorziati risposati, coppie omosessuali, contraccezione. Ai vescovi ricevuti in udienza il Papa ha consegnato una raccomandazione: discernimento nella scelta dei sacerdoti. Abbiamo tanti problemi in tante diocesi, ha detto il Papa, per questo errore di alcuni vescovi di prendere quelli che vengono a volte espulsi dai seminari perché abbiamo bisogno di preti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura due notizie di sport. Una riguarda la Formula 1, l'addio di Alonso alla Ferrari. Lo spagnolo lascia Maranello con 2 anni di anticipo, andrà alla McLaren. Al suo posto arriva il tedesco Vettel, 4 volte campione del mondo con la Red Bull. E poi questa notizia di calcio: è stato rinviato a giudizio il campione argentino Messi. Il calciatore sarà processato in Catalogna insieme al padre per frode fiscale. L'accusa riguarda 4 milioni di euro che non sono stati versati tra il 2007 e il 2009 per lo sfruttamento dei diritti d'immagine dello stesso calciatore del Barcellona. In particolare, Leo Messi avrebbe simulato la cessione dei suoi diritti a società con sedi in paradisi fiscali. Da questa operazione avrebbe ricevuto 10 milioni, dei quali ha omesso di dichiararne 4. In giugno la vicenda sembrava destinata a chiudersi con il pagamento di una grossa multa, ma la Corte ha poi rigettato la richiesta di archiviazione. Il calciatore dovrà quindi presentarsi in aula con il padre Jorge Horacio, suo agente, che è ritenuto il principale responsabile della frode. Secondo l'avvocatura di Stato, Messi non era ai margini della gestione economica degli introiti che generava, ma anzi sarebbe stato consapevole delle frodi a cui avrebbe acconsentito. Ora gli restano 5 giorni per chiedere un altro appello. Marcella Vezzoli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, così siamo arrivati alla fine del primo quarto d'ora. Sapete che siamo sempre insieme fino alle 22, ci sono tante cose da raccontarvi. Vedo tanti vostri messaggi di auguri, da Sebastiano da Bassano e poi Antonella da Celle Ligure, che dice: auguri alla mia radio preferita, vi seguo dall'inizio, ricordo con simpatia il Canarino, il diario di Roberta, complimenti a tutti, ben arrivato a Minoli, grazie. E poi c'è, con l'augurio di un felice anniversario, un saluto speciale by il Ragno Nero, addirittura questi nomi così un po' misteriosi. Ci prendiamo una pausa per aggiornare chi viaggia e poi mi raccomando, un sacco di cose vi devo raccontare. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie molte, vi dicevo, tra poco parleremo un po' della situazione politica attuale, poi ci sarà il caso Iara con la replica dell'avvocato di Bossetti a quello che hanno detto oggi i genitori di Iara, poi parleremo anche di Tasi e di Tari, ogni tanto ci si dimentica, però poi dopo si rischia anche di dimenticarsi di pagarle, fra l'altro, visto che non arrivano precompilate a casa, la Tasi in particolare, la Tari dovrebbe essere arrivata, non so se in tutte le città, ma le notizie principali di oggi sono queste. Renzi al Festival Internazionale a Ferrara dice: Europa e i sindacati devono cambiare, il 3% fa parte del passato. È stato contestato da alcuni, martedì annuncia un incontro con CGIL, CISL e UIL. E poi per quanto riguarda gli Stati Uniti, buona notizia, vola l'occupazione, ripartono le borse mondiali. Scontro sugli iscritti dentro il PD, Renzi dice però abbiamo preso il 40,8%, era soprattutto Bersani ad aver lanciato l'allarme oggi. A Hong Kong i studenti annullano l'incontro con il governo cinese perché alcuni filo cinesi li hanno attaccati, ci sono stati degli scontri oggi. Nella procura di Milano continua lo scontro, proprio gli scontri. Bruti liberati revoca Robledo la delega per l'anticorruzione, il procuratore aggiunto però dice: sono sereno e mi rivolgerò al CSM. Ebola, l'OMS ordina 1 milione di dosi di vaccino made in Italy. Negli Stati Uniti è ancora massima l'allerta, ma escluso il contagio. A New York, a Lampedusa, si celebra il ricordo, l'anniversario della tragedia di più di 300 persone naufragate l'anno scorso, vi ricordate? Poi ci collegheremo con Lampedusa. E poi la notizia di calcio: è Lionel Messi a processo per frode fiscale insieme al padre in Spagna. La Costituzione prevede l'attentato alla Costituzione, nessuno ha mai capito che cosa sia. L'attentato alla Costituzione è non ascoltare Effetto Notte. Buon compleanno Radio 24, da Michele Ainis. Non si può e non si deve divorziare da Radio 24 e dalla voce di Roberta Giordano. Tanti auguri quindi, cara radio. Anna Maria Bernardini De Pace. Quanti effetti speciali ci dà ogni sera Effetto Notte? È proprio una trasmissione adatta alla sera e adatta a Radio 24. Auguri, auguri a Effetto Notte, auguri a Radio 24. Da Stefano Folli. Radio 24, da 15 anni, la passione si sente. E sì, come vi dicevo, compiamo domani 15 anni, siamo qui da 15 anni, ci ascoltate con assiduità, alcuni hanno iniziato prima, alcuni dopo, alcuni durante tutto il percorso, vi dicevo siamo un po' in fase adolescenziale, no? Con questi 15 anni. Stefano Cappellini, ben trovato, ciao Stefano. Buonasera, intanto tanti auguri anche da parte mia. Grazie, sei molto gentile. Stefano Cappellini, caporedattore centrale del Messaggero. Stefano, con te vorrei parlare di questo travaglio interno ai partiti, in particolare al PD, però anche ieri nell'ufficio di presidenza di Forza Italia si è respirata una tensione fortissima, no? Con Berlusconi che è andato a mezzo metro da quello che dovrebbe essere il suo delfino Fitto, ex presidente della regione Puglia, dicendogli: guarda che ti caccio, tu ci danneggi, ci fai perdere voti. E poi ha detto: sei un democristiano, figlio di un democristiano, anche magari peccando un po' di mancanza di sensibilità, visto che Fitto aveva perso il padre a 18 anni. Quindi lì si consuma da un po' di tempo questa insoddisfazione per anche una volontà di ricambio di leadership, no? Da parte magari di alcuni più giovani scalpitanti, diciamo così. E dall'altra c'è anche il PD, che il travaglio lo conosce da tempo, ha cambiato vari nomi nel corso degli anni e poi adesso con l'avvento di Renzi diciamo che rischia per alcuni di perdere la propria identità. Oggi c'era l'allarme di Bersani che diceva abbiamo perso 400.000 iscritti rispetto all'anno scorso, cioè dice ormai il partito diventa un partito fatto di elettori ma non di tesserati. Spieghi anche alla gran parte delle persone che ci stanno ascoltando di che passaggio si sta parlando qui, Stefano. Beh, innanzitutto credo vada detto con chiarezza che si tratta di un passaggio epocale che ha anche poco a che fare con le leadership contingenti, con la situazione del momento politico attuale. Cioè comunque da molti anni è in corso un fenomeno di decrescita della militanza, della partecipazione attiva ai partiti, è un fenomeno tutt'altro che nuovo. Insomma, se si confrontano le cifre degli iscritti ai partiti della cosiddetta Seconda Repubblica con quelle della prima, insomma, il confronto è impressionante, nel senso che parliamo di un calo complessivo di milioni di persone. Quindi si tratta comunque di un fenomeno che in qualche modo ha a che fare anche con la mediatizzazione estrema della politica, con la crescita delle leadership più sul fronte mediatico. E ovviamente questo non è solo un fenomeno italiano, peraltro, anzi è un fenomeno che in altri paesi di Europa ha avuto una tendenza accelerata già in anni precedenti. Poi ovviamente ci sono anche le cause invece specifiche, tutte italiane, e quelle insomma ovviamente hanno anche il loro peso e sono molto diverse tra PD e Forza Italia. In Forza Italia c'è una situazione che indubbiamente è molto particolare, perché insomma è un partito che anche questo ha cambiato nome, veste molte volte nel corso degli anni, il leader è sempre però rimasto lo stesso in qualunque situazione. E ogni volta la leadership di Berlusconi non ha mai tollerato alcun genere di opposizione interna. Berlusconi ha un solo metodo quando si ritrova un oppositore in casa, che è quello di metterlo alla porta. Come era stato con Fini al tempo, no? Beh, ha evocato un po' il fantasma di Fini. Insomma, la dinamica è la stessa, con la differenza molto negativa per Forza Italia che il PDL di Berlusconi e Fini era un partito che aveva sfiorato il 40% alle politiche. E quindi era una grandissima formazione che in teoria doveva essere per molti anni a venire la grande casa comune del centrodestra italiano. E la Forza Italia attuale è un partito che ovviamente è imparagonabile con quel PDL, è una forza che oggi insomma, fa fatica ad avvicinarsi al 20%, è una forza chiaramente che ha un leader ormai molto provato da tutte le vicende che sappiamo e che ne è inutile ricordare. Diciamo solo che c'è un leader incandidabile che già basterebbe insomma, a rappresentare un po' la situazione surreale, perché Berlusconi resta in campo, resta chiaramente il leader, ma al tempo stesso non può essere il candidato premier. In più c'è una situazione per cui in teoria Forza Italia è il principale partito di opposizione, ma nei fatti poi è chiaro che esiste un asse con Renzi, che non è un asse che esiste solo sulle riforme istituzionali, ma insomma è pronto anche ad allargarsi e ad agire anche su altri campi. Adesso vedremo cosa accadrà nella riforma del lavoro. E infatti Stefano, volevo farti sentire a questo proposito giusto due stralci di quello che ha detto Renzi oggi a proposito sia del PD che anche del patto del Nazareno, ormai consacrato con questo nome. Sentiamo questo che riguarda il patto del Nazareno e quindi quello che potrebbe essere il futuro con Forza Italia, se è vero che si dice potrebbe soccorrere la maggioranza, passare dall'opposizione, vediamo. Io mi prendo tutti i fischi nel dire che è giusto fare gli accordi sulla legge elettorale e sulla riforma delle regole del gioco insieme all'opposizione. E se quei grillini che se ne sono andati o che hanno fatto altro avessero il coraggio, anziché di stare a fischiare, di confrontarsi sulle regole, io parlerei anche con loro come ho provato a fare. E Renzi ha detto che appunto è giusto fare le cose insieme all'opposizione, perché le grandi riforme bisogna farle insieme, però poi ha aggiunto anche ai giornalisti che gli chiedevano questa cosa, se potesse nascere di nuovo un governo della larga intesa anche con Forza Italia, lui ha negato che questo possa succedere, cioè se vogliono votare insieme a noi benissimo, ma non può succedere. Può succedere secondo te invece? No, ma io credo che lui sia assolutamente sincero in questa dichiarazione. Il fatto è che di fatto diciamo un'intesa c'è comunque, anche se formalmente Forza Italia non fa parte della maggioranza, esiste un asse, cioè esiste un confronto continuo su tutte le questioni più delicate. Renzi ha perfettamente ragione secondo me quando dice che le regole vanno scritte insieme all'opposizione. Credo che questo sia stato anche un vulnus negli anni scorsi di leggi elettorali o leggi costituzionali approvate a maggioranza. E questo secondo me è un problema, è un errore, perché la riscrittura delle regole per definizione dovrebbe sempre essere comune, quindi Renzi ha ragione nel rivendicare in questo la ricerca di un dialogo con Berlusconi. L'impressione è che questo dialogo vada un po' oltre, ecco, le riforme istituzionali, che ci sia comunque un asse, per quanto formalmente non realizzato, perché appunto Forza Italia resta fuori dalla maggioranza e secondo me ci resterà. Però su molti campi, compreso anche quello della riforma del lavoro, è chiaro che esiste una dialettica che va un po' oltre. Che cosa intendi quando dici così, Stefano? Anche per esempio un asse per il post napolitano, una volta che Napolitano dovesse dimettersi? Ma non c'è alcun dubbio, senza ombra di dubbio. È chiaro che per come si sono messe le cose e per quello che è la situazione dei rapporti attuali tra Renzi e Berlusconi, sicuramente il prossimo Presidente della Repubblica sarà un presidente eletto sull'asse PD Forza Italia. Su questo direi che non ci sono molti dubbi, e non mi pare poco per del resto. Quindi sì, è chiaro che insomma esiste un'interlocuzione che, anche se non formalizzata, però è un dato politico evidente. Stefano Cappellini, ti faccio sentire anche invece la replica in diretta di Renzi alla preoccupazione di Bersani sul fatto che ci sono sempre meno iscritti e la base è fatta di elettori. Sentiamolo. A qualcuno piace il PD che ha 400.000 iscritti quando c'è il congresso e però prende il 25%, perde le regioni, e a qualcuno piace il PD che al 41% prende il Piemonte, prende la Sardegna e prende l'Abruzzo e prova a vincere la partita più importante, che non è quella delle tessere, è quella delle idee e, se mi permettete, anche degli ideali. A questo proposito, Stefano Cappellini, per chiudere, Renzi ha anche detto: quando la sinistra fa la sinistra e non insegue i fantasmi prende il 40%, quando insegue i fantasmi i sospetti è destinato a perdere. Allora, quando la sinistra fa la sinistra, alla fine che cos'è davvero di sinistra, Stefano? Dicelo tu. Insomma, mi fai una domanda impegnativa. Indubbiamente Renzi ha ragione nel rivendicare la necessità di una discontinuità su alcuni temi. Renzi deve però stare attento e ricordarsi che comunque lui è il leader di un partito plurale, di un partito che in questo momento è forte anche di un risultato importante alle europee, perché Renzi giustamente rivendica quel 40%. Però non c'è dubbio che il Partito Democratico è un partito dove esiste comunque una componente di sinistra, non so se affezionata a vecchie idee, ma sicuramente affezionata a valori molto forti, che Renzi ha il dovere, in quanto segretario del Partito Democratico, di tenere dentro un percorso politico condiviso. Io non dimenticherei che, a proposito del crollo delle tessere, insomma, che Renzi è stato eletto sì trionfalmente alle primarie che lo hanno incoronato segretario, però quel congresso si svolse su due piani, su due livelli, perché ci fu prima una conta interna, e chiaramente Renzi vinse con un margine molto più ristretto all'interno della conta degli iscritti. Io credo che in questo momento una parte di quel mondo di iscritti al Partito Democratico evidentemente viva con una certa difficoltà questa nuova fase. Probabilmente, mi viene da pensare, non ho ovviamente dati scientifici per provare quello che dico, ma insomma ne sono abbastanza convinto, una parte di quel mondo oggi fa fatica a riconoscersi nel PD a guida renziana, magari lo vota ancora nelle urne, ma forse non intende più partecipare attivamente a questo partito. Chiaramente per Renzi questo può diventare politicamente però un problema, perché per rimanere sul 40% Renzi ha sì bisogno, come giustamente rivendica, di cercare voti anche nell'elettorato tradizionalmente non di sinistra, però deve stare attento a non perdere di vista troppo il suo mondo, perché altrimenti rischia il nocciolo duro, insomma. Rischia di perdere dei voti dall'altra parte. E un leader che ha bisogno come lui assolutamente di una performance come quella delle europee potrebbe trovarsi in difficoltà se non si trascina dietro anche quel pezzo di mondo di sinistra che in questo momento forse è più in sofferenza. Già. Grazie Stefano Cappellini, buon fine settimana. Grazie a voi. Ciao Stefano. Ciao. Guardavo ancora i vostri messaggi, grazie a Cristiano da Gallipoli che manda gli abbracci, 15 anni di abbracci, quindi 15 anni di radio, 15 anni di abbracci per me e per la radio. Poi vedo anche da Treviso, scrivono cordiali saluti da Marabello, auguri, buon 15 anni di compleanno. E poi complimenti, grazie per la bella radio, e se lo dicono i veri folli, tra parentesi Stefano fa il gioco su Stefano Folli, però auguri a Radio 24, eccetera eccetera. Insomma, i vostri auguri che stanno arrivando visto che compiamo oggi 15 anni, se qualcuno avesse acceso in questo momento. Ci fermiamo, prendiamo una pausa, poi potete continuare a scrivere i vostri messaggi sugli auguri o su le varie notizie che vi racconto al 349-238-6666 SMS e poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi alla vigilia del compleanno dei 15 anni di Radio 24. Vi racconto qual è stata in breve la giornata di oggi se non avete sentito i titoli all'inizio. Renzi era al Festival di Internazionale a Ferrara, è stato contestato, fischi e lancio di uova, lui risponde, io sorrido, e parla naturalmente di Europa, di PD, di mercato del lavoro. Hong Kong, gruppo di filocinesi aggrediscono gli studenti che decidono allora uno stop al dialogo col governo. Dagli Stati Uniti arriva la buona notizia dell'occupazione che vola, creati 240.000 posti di lavoro. L'omicidio di Iara, i genitori contro l'avvocato di Bossetti, inaccettabile l'ipotesi della vendetta familiare, e tra poco ne parleremo direttamente con l'avvocato. Lo scontro in atto alla Procura di Milano che continua, perché Bruti Liberati revoca Robledo la delega per l'anticorruzione, anche se il procuratore si dice tranquillo e annuncia che si rivolgerà al CSM. Due notizie di sport: Formula 1, l'addio di Alonso alla Ferrari, lo spagnolo lascerà con 2 anni di anticipo per la McLaren e al suo posto arriva Vettel. Per il calcio, Lionel Messi è a processo per frode fiscale insieme al padre in Spagna. Le previsioni su Effetto Notte hanno veramente tutt'altro effetto. Parola di Maria Giuliacci. Auguri Radio 24. Fa sempre un bel effetto essere su Radio 24. Buon compleanno da Elisabetta Gualmini. Radio 24, il suo Effetto Notte illumina tutti noi. Da Andrea Margelletti, tanti auguri. Effetto Notte, ma non è mai buio. Roberta Giordano illumina e scalda. Tanti auguri a Radio 24 da Alberto Orioli. Radio 24, da 15 anni, la passione si sente. E adesso torniamo a parlare della vicenda della piccola Yara Gambirasio, perché per la prima volta dopo tanto tempo i genitori di Yara rompono il silenzio, rompono quindi il loro abituale riservo per replicare all'ipotesi che dietro l'omicidio della loro bambina tredicenne ci sia una vendetta nei confronti del padre. È un'ipotesi che ha già avanzato Massimo Bossetti, che è l'unico indagato per questo omicidio, e che è stata ribadita ieri sera in una trasmissione su Tele Lombardia da uno dei difensori di Bossetti, l'avvocato Claudio Salvagni. I genitori di Yara ribadiscono che si tratta di illazioni inaccettabili, e in collegamento c'è proprio il legale di Bossetti, Claudio Salvagni. Come risponde a questa indignazione dei genitori che dicono, attraverso il loro legale, i processi si fanno nei tribunali e non nei salotti televisivi? Innanzitutto buonasera. Buonasera. Intendo ribadire che io ho la massima comprensione per la tragedia che ha colpito questa famiglia. Mi sento prima da padre, da uomo, ma anche da avvocato vicino alla famiglia Gambirasio. Ciò detto, però, non posso esimermi, per cercare di fare al meglio il mio lavoro, di dare le risposte necessarie che ancora non sono state date a questa vicenda. E a mio modo di vedere, i dubbi e le perplessità sono tanti, le zone d'ombra sono tante. Proprio per questo ritengo che non possa essere lasciata da parte alcuna ipotesi investigativa. A me è stato chiesto se questa ipotesi era un'ipotesi credibile, un'ipotesi percorribile. Io ho semplicemente risposto che, per quanto mi riguarda, tutte le ipotesi al momento sono da ancora tenere in considerazione. Lo dico perché sono convinto dell'innocenza del signor Bossetti, e quindi mi sento in dovere di non escludere nulla. Quando avrò la possibilità di vedere gli atti del fascicolo del pubblico ministero e verificare che anche in questa direzione si è indagato, solo allora mi sentirò tranquillo di escludere ipotesi alternative. Al momento, avvocato Salvagni, a che punto siete? Al momento siamo in attesa della discussione di quello che è chiamato appunto l'appello presso il Tribunale di Brescia. Ah, per la scarcerazione che avevate chiesto voi come difensori di Bossetti. Esattamente. E la decisione quando c'è l'udienza e quando potrebbe arrivare la decisione su questo? L'udienza è il 14 di ottobre, e penso che già in quella data ci sarà la decisione. Lei dice non esclude nessuna ipotesi, a parte questa della vendetta c'è qualche altra possibilità, tesi su come possono essere andate le cose che magari... Ma guardi, noi della difesa ci siamo fatti alcuni convincimenti che sono al vaglio delle nostre attività difensive, insomma delle nostre indagini difensive, perché al momento non ne posso parlare perché saranno poi oggetto del processo, per cui su questo vorrei mantenere un certo riservo, ovvio riservo. Però sono partendo dall'assunto che, a mio modo di vedere, questo non è un delitto a sfondo sessuale. Senta, mi pare che il figlio più grande di Bossetti sia andato a trovarlo in carcere in questi giorni per la prima volta, il figlio tredicenne. Sì, questo è accaduto nella giornata di ieri. Com'è andata? È andata bene? Beh, è stato ovviamente un incontro molto emozionante, c'è stata una grande commozione da parte sia del papà che del figlio che della mamma, ovviamente, perché dopo 100 giorni e oltre 100 giorni, insomma, rivedere il proprio figlio in un ambito carcerario è sicuramente molto, molto provante. Senta, avvocato Salvagni, l'ultima cosa, nei vostri ultimi dialoghi tra lei e Bossetti, che cosa ha detto Bossetti, le ultime cose significative che ha detto su questa vicenda? Ma Bossetti continua a ribadire la propria innocenza, continua a dire di fare tutto il possibile, umanamente possibile, nelle nostre facoltà per poterla dimostrare, questa innocenza. E è fiducioso che questo possa avvenire. non ha perso la fiducia nella giustizia, anche se è molto provato ovviamente da tutti questi giorni di isolamento. La prova del DNA per quanto riguarda gli inquirenti rimane sempre la prova regina, probabilmente forse anche loro, come lei dice, che come avvocati difensori nelle vostre indagini difensive avete diciamo delle carte da scoprire, anche loro pensa che possano avere delle altre prove? Non lo so, ovviamente non posso immaginare come la loro strategia. Penso che a fronte di questa che è stata definita la prova regina debbano comunque sussistere degli importanti indizi che possono sorreggere questo che per me rimane un indizio. Da solo il DNA ritengo non possa essere sufficiente per una condanna. La spiegazione in chiusura, questo glielo chiedo, che Bossetti continua a dare sulla presenza del suo DNA sugli slip, sui pantaloni di Chiara, è sempre che lui perde sangue dal naso e quindi qualcuno avrebbe potuto prendere gli attrezzi dove forse questo lavorativi, dove il sangue del suo naso è caduto, e quindi con questi poi uccidere Chiara. È sempre questa la spiegazione? No, assolutamente. Questa peraltro è una elaborazione giornalistica, non proviene dalla difesa, è qualche giornalista che si è sbizzarrito in questa ricostruzione. Che Bossetti soffra di epistassi è un dato oggettivo, che questo possa essere accaduto attraverso uno strumento di lavoro rubato, no, onestamente non è una delle nostre ipotesi. Ma quindi la spiegazione che vi date di questa presenza del DNA di Bossetti? Allora, premesso che io non do assolutamente per scontato che quel DNA sia il DNA di Bossetti, allora, premesso questo, quando anche fosse incontrovertibilmente dimostrato che quel DNA di ignoto 1 è il DNA di Bossetti, c'è un ulteriore passo da dimostrare, che quel DNA sia stato posto da Bossetti proprio quando è stata uccisa la piccola Chiara, e non che magari possa essere stato trasportato diversamente. Va bene, io la ringrazio, avvocato Claudio Salvagni, buon lavoro, quindi buona continuazione. Vi ringrazio, grazie a voi. Grazie, a presto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso vi do questa notizia, che la Tari, la tassa sui rifiuti, in 4 anni è cresciuta del più 22%. Ce lo conferma Cristiano Dell'Oste, guru fiscalista del Sole 24 Ore. Ciao Cristiano. Buonasera a tutti. È vero, questa brutta notizia è fondata? Ma diciamo che il dato che tu hai appena riportato è una stima che è uscita oggi da parte delle associazioni dei consumatori. Si può dire molto in realtà sulla tassa rifiuti, perché poi intanto i cittadini hanno imparato a familiarizzare con sigle molto diverse e poi insomma dipende un po' da città a città. In questo caso siamo di fronte a una serie di aumenti, questo è fuori di dubbio, però poi molto dipende dalle diverse città, ma anche, qui stiamo parlando di famiglie, dalla situazione del nucleo familiare, per cui per esempio una tendenza generale è quella a vedere un pochino più tassate le famiglie numerose. Certo, perché però, il single ha una situazione particolare che può anche denunciare, diciamo, no? al comune. Perché la tassa ha cambiato nome, però quasi dappertutto continua ad avere gli stessi riferimenti della vecchia TARSU, quindi la tariffa dipende dai metri quadrati dell'abitazione e dal numero di occupanti, quindi poi pesa in modo diverso da una città all'altra, ma in linea di massima le famiglie numerose tendono a pagare di più, ovviamente, perché producono in proporzione più spazzatura, chiaramente, no? Sì, l'idea è questa. Poi una delle tante assurdità della Tari è che siamo ancora in attesa di un regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro la fine di giugno e che non è ancora arrivato, che dovrebbe fissare i criteri per far sì che venga finalmente attuato il principio europeo del chi inquina paga, cioè che quindi la tariffa sia davvero commisurata ai rifiuti prodotti. È una cosa che è tecnicamente possibile, ma che non avviene praticamente in nessuna città italiana. Ci vorrebbe un rifiutometro, in una, no, in una specie di bidone, sì, dove uno butta la spazzatura, un rifiutometro. Sì, ci sono, insomma, ci sono tecnologie, modalità, sì, e tecniche che esistono. Il problema è che poi tradurle in pratica è una cosa che non succede. Anche per le imprese, pensiamo a tutte le attività commerciali, ma anche alle aziende più o meno grandi, la tariffa è poi legata a degli indici di producibilità dei rifiuti che però sono teorici. Quindi ad esempio si stabilisce che una lavanderia consuma di più e si applica lo stesso indice a tutte le lavanderie, poi non è detto che sia così. Quindi è chiaro che oltre ad avere un prelievo che aumenta, abbiamo anche un prelievo che poi è distribuito sempre in modo un pochino arbitrario. Senti, ti vorrei chiedere anche della TASI, anche se abbiamo solo un minuto ancora, c'è un paradosso anche per la TASI, no? Che sembra che le abitazioni più piccole la paghino più cara che l'IMU, come si chiamava prima. Eh sì, questo può essere vero, è vero sicuramente in quei comuni, e sono circa 700, che non hanno deliberato entro il 10 di settembre le aliquote. In questi comuni si va a pagare al 16 di dicembre e si paga con un'aliquota dell'1 per 1000, uguale per tutti e senza detrazioni. L'assenza di detrazioni fa sì che le case con una rendita catastale bassa, indicativamente dai 400 euro in giù, paghino più di quello che hanno pagato nel 2012 quando ancora c'era l'IMU in forma la classica sulla prima casa. E siamo tutti contenti. Grazie Cristiano Dell'Oste. Grazie a voi, ciao. Buona serata. Ciao Cristiano. E adesso Europa 24 notte. Dicevo nei titoli che Lampedusa ricorda un anno dal naufragio, le 368 vittime che un anno fa appunto naufragarono con un barcone carico di migranti che si inabissò davanti all'isola dei Conigli. E nel giorno di questo tragico anniversario la rabbia di Lampedusa si scaglia anche contro l'Europa. Il più contestato questa mattina è stato il presidente del Parlamento Martin Schulz. Abbastanza eloquente quest'audio, i manifestanti hanno spiegato il perché di questa rabbia. Questa protesta perché loro vengono qua soltanto quando ci sono giorni come questo di tragedia e per tutto il resto dell'anno si interessano per niente delle nostre vite, sia di quelle dei migranti che muoiono, sia delle persone dell'isola che soffrono tutti i giorni dovendo affrontare. Chi rappresentate? Ognuno rappresenta a se stesso. E allora la nostra Valentina Furlanetto ha sentito proprio il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz in questa intervista a Radio 24. Io rappresento il Parlamento europeo che ha sollecitato i Paesi membri dell'Unione. In Europa non c'è un vero e proprio governo, sta ai singoli governi dei 28 Paesi membri fare di più. Un provvedimento decisivo dovrebbe essere quello di distribuire i rifugiati tra tutti gli Stati membri e non solo alcuni. Chi è venuto qui per protestare non rappresenta la maggioranza dei cittadini. Tra loro ci sono anche alcuni pescatori che ho definito miei eroi, ma quelli che mi gridano contro, definendomi un nazista, un fascista, non posso considerarli miei interlocutori, che si tratti di un primo ministro o di un gruppo di uomini in un aeroporto. E Valentina Furlanetto è ancora lì a Lampedusa dove si stanno concludendo le celebrazioni, no Valentina? Ciao. Sì, ciao, buona serata a tutti. Sì, è proprio così, stanno concludendo le manifestazioni. Oggi pomeriggio c'è stata la pioggia che ha un po' rovinato le celebrazioni, il corteo dei cittadini di Lampedusa si è svolto quindi con gli ombrelli e anche la preghiera all'interno di una chiesa con 368 candele, ognuna per una vittima, con questi canti eritrei soprattutto, perché i sopravvissuti che sono tornati qui, una ventina, sono quasi tutti di origine Eritrea. Poi è stata gettata in mare una corona di fiori alla presenza del Presidente della Camera Boldrini e del Presidente del Parlamento Schulz, che abbiamo sentito, che ho potuto intervistare. Come avete sentito, grandi contestazioni, anche stasera sono chiusi molti negozi, domani ci sarà uno sciopero, contestazioni di un gruppo eterogeneo in effetti, dai commercianti agli albergatori che protestano per la presenza dei migranti che porterebbe via turismo, ai ragazzi dei centri sociali arrabbiati invece al contrario, perché secondo loro questi migranti non sono abbastanza tutelati. Insomma, difficilissima la situazione dei migranti e molto difficile anche la situazione di Lampedusa. Valentina Furlanetto, un saluto da parte nostra allora a Lampedusa per quel che si può. Saluti per quel a che tutti può valere. E da Lampedusa vi restituisco la linea. Grazie Valentina. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E potrebbe mai mancare alla fine della settimana, il venerdì, il nostro colonnello Mario Giuliacci. Colonnello, che tempo ci aspetta? Ciao Mario. Sì, ciao Roberto, certo che non mancherò, tu sai che sono sempre presente per te. Bene, che tempo avremo? Diciamo, quello che abbiamo visto negli ultimi 3 giorni, ossia bel tempo su tutto il nord Italia, bel tempo sulle regioni tirreniche, ancora nuvole, rovesci temporanei soprattutto al pomeriggio, Marche, Abruzzo, Molise e al sud. E proprio in queste ore un ammasso nuvoloso temporalesco di forte intensità in arrivo dal Nord Africa sta lambendo le coste meridionali della Sicilia. Bene, ancora la Sicilia e la Bassa Calabria tra domani e dopodomani non solo vedranno piogge, ma vedranno anche il rischio di qualche temporale forte. Per il resto dell'Italia ho detto bel tempo gradevole, temperature gradevoli, non aggiungerei altro perché insomma sarebbe, diciamo, superfluo. Una volta che abbiamo delle buone notizie, non aggiungiamo altro, il resto lo potete leggere su www.meteogiuliacci.it. Grazie colonnello, buon tempo a te. Grazie Roberto, un saluto. Ciao colonnello. Buonasera. E vedo ancora i vostri auguri bellissimi a Lida da Genova, auguri di cuore, grazie perché siete una grande compagna quotidiana. Paolo da Trieste, 15 anni non li dimostra, buon compleanno a Roberta Radio 24. Renata da Genova, Ermanno, sono bellissimi i vostri auguri. Giuliano da Roma che dice studiate ragazzi, fra 3 anni sarete maggiorenni. E poi Maria Laura da Roma, auguri Radio 24 e da Oscar, ma le stelle che brillano di più siete Minoli, e te Roberta eccezionale, vi voglio bene, grazie. Poi tanti altri messaggi anche da Enzo, molto bello questo messaggio anche di Enzo 64 che dice ho un rimpianto, non avervi conosciuto prima. Beh Enzo, meglio tardi che mai, e magari fai anche il passaparola se qualcuno disgraziatamente ancora non ascoltasse Radio 24 che compie 15 anni e anche naturalmente Effetto Notte. Mi fermo perché ci ritroviamo giusto tra pochino.